Sette spaccate, precise precise, dall'orologio impreciso di Rock FM. Il buongiorno vi arriva dalla voce dell'Ariele, eccolo qua, seduto sullo sgabellino di Rock FM, il comodo sgabellino di Rock FM, dai nostri studi milanesi, come se ne avessimo altri, ma abbiamo solo questi, dico però, dagli studi milanesi, che mi guardi così Spadino? Via Locatelli 1, 20-124 Milano, eccoci pronti. Pensavo a una metafora venendo qui Spadino stamattina. Pane, burro e rock and roll è un po' il pulmino che vi porta a scuola. Ti piace così? Facciamo quattro fermate che sono le quattro mezz'ore. Parte lo scuola bus di pane, burro e rock and roll. Salite pure, non ci vuole il biglietto. Puntata 188, vi portiamo a scuola noi oggi. Pane, burro e rock and roll. Sì, anche a voi che andate al lavoro, è metafora. La tua colazione rock. Metaforicamente come se vi portassimo alle elementari. Pane, burro e rock and roll. Potete sedervi anche in fondo, ma non fate casino, mi raccomando, eh. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata. Cambiare, pensa che fortuna l'averci incontrato. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ma non è una gita scolastica, eh? Vi portiamo a scuola o al lavoro, sia ben chiaro, metafora per metafora specifichiamo. Buona giornata, vi arriva anche con la malina dal nostro Spadino e tra qualche minuto vi arriverà anche da Roberto Fricantoni. Questa è la squadra, come di consueto, la colazione più rock d'Italia, servita in diretta dalle 7 alle 9 del mattino. Presente con noi anche Mister Trombetta, che non mancherà di strombazzare a chi vorrà richiederlo alle nostre coordinate. Attenzione perché la puntata di oggi è bella ricca, abbiamo un paio di robacce da combinare. Innanzitutto riaccendiamo la speranza in molti radioascoltatori e radioascoltatrici che avevano già dato per persa la nostra radionovela che si chiama Zorrock. Ecco, quest'oggi invece andrà in onda la terza puntata, il terzo appuntamento. Andrà in onda nell'ultima mezz'ora. Se voi di questa prima fermata del pulmino di pane, burro e rock and roll sapete già che non riuscirete ad ascoltarla, o la risentite su internet, sul nostro spazio o sul sito della radio, oppure nelle prossime puntate la manderemo in onda in replica nella prima ora, come per esempio nella puntata di oggi andremo a riascoltare gli AC/DC con la bocca, che andarono in diretta venerdì scorso nella seconda ora, e ve li meritate anche voi della primina, anche voi primini. Ci sta che loro sono i primini, quelli della prima ora, no? Back in Black fatta con la bocca, non ne avevate mai sentito parlare? Beh, restate incollati perché ve la facciamo ascoltare dopo, nella prossima mezz'ora. Intanto si comincia, che è già qualcosa. Si comincia inneggiando alla rivoluzione, ma sì, dai, via, tanto siamo rock, che ce frega a noi. I Cult, The Revolution, una splendida giornata, amici e amiche, ve lo auguro, eh? Tak. In the wind, all my beauty. Revolution, cult. La faremo la rivoluzione prima o poi, tranquilli, eh? Stiamo solo organizzando un po' il da farsi. No, perché molti radioascoltatori e radioascoltatrici ci credono un po' nella rivoluzione di pane, burro e rock and roll. Ma sì, la facciamo, dai. Appena abbiamo un quarto d'ora libero, una rivoluzione è molto rock. È terribilmente rock. Vi coccoliamo noi, sono già passato dal pulmino alle coccole. A proposito della metafora del pulmino, abbiamo questo commento da Fire: ma se quelli della prima ora sono i primini, quelli della seconda sono i secondini? Mentre, non un commento, cioè la lascio cadere così, pum. Fa più ridere, è un po' comico secondo me la pausa, capito? Mentre l'altro, dicevo, andate, quelli che vanno in fondo, perché di solito quelli che vanno in fondo nel pulmino sono quelli che fanno casino. Io lo so, ho fatto un liceo intero andando in pullman. A Gorla Maggiore. Sapevate che esiste Gorla Maggiore e Gorla Minore? Non ricordo mai se era Gorla Maggiore o Gorla Minore, una delle due, comunque andavo là. In collegio, in pullman, stavo in fondo a far casino. Mi hanno anche ritirato l'abbonamento un paio di volte, ma non era colpa mia. E saluto, questi sono fatti personali che io alle 7 del mattino tiro fuori così. Il commento è: io sono il primino che sta in fondo all'autobus, sto in silenzio ma faccio su. Però se fumi apri il finestrino, capito? Poi dai, alle 7 no, diamo il buon esempio, per favore, eh? Vi ricordo le coordinate, sempre a quest'ora puntuali, dang, che se è vero l'ascolto frazionato, c'è qualcuno che sente solo pane, burro e rock and roll con i numeri 335-100-7777, ariel@radiorockfm.com. Mentre voi della voi primini magari non riuscite mai a prendere i numeri dell'otto che ieri ha dato la sciura Carla, ve li do io allora, carta e penna. Milano-Napoli, ormai me li sono segnati, ho imparato di bestia. L'estratto 42, ambi 42-12, 42-21, Milano-Napoli tutte. Se invece volete fare il terno, 42-21-12. Che è dai numeri, no, Carla, la nostra sciura Carla, di solito la sentiamo più avanti nel programma, ci dà gli estratti, i numeri da giocare. Gli ultimi li ha anche beccati. Ah, che roba! Giovedì 21 di febbraio 2008, l'anno della svolta. Sarà pure accaduto qualcosa il 21 di febbraio? Beh, lo scopriremo con l'almanacco. Eh? Ovviamente in compagnia di Fricantoni. Kula Shake! questa è Tatva. Accendete gli incensi, amici, e via. Eccolo qui in splendida forma come non mai, anche stamane, ad allietare la colazione di pane, burro e rock and roll, Roberto Fricantoni. Grazie, grazie. Prego, amici. Prego, grazie. Stavo consultando. Cosa? E stavo terminando, chiedo scusa, ero un attimo, ero un filo distratto. Lode. Perché stavo curando l'almanacco. Ah, fantastico, gli escono così, spontanei a quest'ora della giornata, veramente imbarazzante, maestro. E allora le leggo l'almanacco del giovedì. La prego, 21 di febbraio, sì. La vita resta dura e lo speaker la misura, ma resisti con Isacco, Spadino Ariel e l'almanacco. Fantastico. Viva la redazione! 21 di febbraio, iniziamo con una notizia rocchissima. 1804, la prima locomotiva a vapore esce dalla fabbrica della Penny Darren Ironworks in Galles. Mentre nel 1842, il 21 febbraio, viene brevettata la macchina da cucire. Per continuare a fare l'almanacco sonoro. Esatto, perché... l'almanacco sonoro. Chi me l'ha brevettato? Un certo John Greenhawk. Bravo, complimenti. Ma noi di pane, burro e rock and roll da sempre sosteniamo, certo, e valorizziamo le cosiddette piccole invenzioni. Perché la nicchia vincerà. Bravo. Le piccole invenzioni sono comunque enormi. gigantesche, non sottovalutiamo le piccole invenzioni. 21 febbraio del 1848, invece, un certo Karl Marx e Friedrich Engels pubblicano il manifesto del Partito Comunista. Li ho conosciuti. Di loro, in persona. Erano due sovversivi. Cosa facevano? Sicuramente anche un po' culattoni. Non dica così, questo non è mai saltato fuori. Lei è un dietrologista. Io non mi occupo del dietro. Guardi, proseguo con un'altra invenzione minore che le piacerà. 1953, a un anno dalla nascita di Fricantoni, Francis Crick e James Watson scoprono la struttura della molecola del DNA. L'acido desossiribonucleico, che sta alla base della vita. Ma dove le tiene tutte queste notizie, Roberto? Tutte qua, in mio culo. No, quella è la testa. Come disse il tedesco che stava imparando l'italiano. Va bene. Volevo segnalare... Un saluto agli amici tedeschi, scusi, no, Dario. Un saluto agli amici tedeschi in ascolto. Volevo segnalare, se me lo permette, che Francis Crick aveva già fatto un'altra invenzione. Sì, quale da dica? Quella per cambiare le ruote della macchina. Adesso è lei che si è infilato in un cul-de-sac. Allora chiudiamo con una pessima notizia, perché il 21 di febbraio del 65 Malcolm X, o come direbbe il nostro Mike Buongiorno, Malcolm 10, no, Malcolm Per avrei per. Detto Malcolm Per, Malcolm Per. Molto bene. Viene assassinato a New York dai membri della Nazione dell'Islam. Insomma, un appello a questa nazione dell'Islam. Non si fa. Non si fa. Si ammazzano le persone così. Non si ammazzano le persone, basta. Pane, burro, rock and roll contro gli omicidi. Pane, burro, rock and roll non ci sta. Michael Schenk. 7:20 minuti primi, pane, burro, rock and roll, la vostra colazione rock, gliela fate, dai che gliela fai, anche là, così si firma, ci vediamo se oggi gliela fai, la incollata Rock FM, vedrai che la spinta giusta te la diamo. Scusate se ogni tanto faccio cigolare la seggiolina di Rock FM, essendo rock cigola anche lei. Ho un problema da affrontare riguardante i vostri contatti, i vostri sms, le vostre mail e anche l'interazione che pian piano sta nascendo anche sul nostro spazio myspace.com/paneburrofm, aggiornato quotidianamente. Allora, il problema riguarda il chinotto, è ufficiale, ieri ho accennato, avevamo l'appuntamento con una nota ditta produttrice di chinotto. E l'appuntamento è stato fissato, io, Freak Antonio e Isaac Rizzi ci siamo presentati e la signora che ci aveva dato l'appuntamento, cioè ci ha tirato il pacco, che era dalle medie che non mi tiravano un pacco così, capito? Ci ha fatto dire no, non c'è, la signora non c'è, verrete richiamati, cioè, veramente patetico, è stato patetico, devo confessarvelo. Sono volati anche un paio di commenti che non posso dire in diretta radiofonica. Pensavo che questa cosa cadesse nel nulla, invece ci avete più la carogna voi di noi e continuano ad arrivare proposte, commenti. Io li giro, e li leggo volentieri. Quello di oggi recita così: ma lo sapete che in un paesino sulle Alpi Lombarde, a quota 666 sul livello del mare, stranamente, sgorga un'antichissima fonte di chinotto praticamente inutilizzata. Chinotto puro esce. Visto che ci hanno dato il 2 di picche, che ne pensi se il chinotto lo imbottigliamo noi? Avevo pensato di creare la bibita della svolta, il chinottino. In bottiglia tipo frutto di succa. Che ne pensate? Possiamo lanciare l'appello per 1000 bottiglie e tappi? Per la grafica avevo pensato alle fototessere miniaturizzate di tutti noi. Il nome da definire, ciao. Beh, sul fatto di produrre noi del chinotto potrebbe effettivamente essere l'idea della svolta, Ci ragioneremo. Tanto se avete altre proposte da fare, le coordinate ben le conoscete. Sale la tensione perché tra poco manderemo in onda Back in Black degli AC/DC con la bocca, ma intanto Shocking Blue, quella che fu la colonna sonora della cartolina postale. Shocking Blue, Send Me a Postcard. Quanti ricordi? Mi ricorda la scorsa estate, capito? Quando centinaia di radioascoltatori e radioascoltatrici raccolsero l'appello per salvare la cartolina postale. Quanti ricordi. Chissà cosa ci inventiamo per quest'estate, Frigg. C'era già un paio di idee. Vi faremo sapere. Intanto la dedicherei però, Send Me a Postcard, al radioascoltatore Fernando da Milano, che non ho ancora mai ringraziato pubblicamente, ma è doveroso farlo, perché l'amico Fernando si sta occupando in prima persona della spedizione dei calendari di Pane, Burro e Rock and Roll, i calendari 2008, l'anno della svolta, che vi ricordo in quel di febbraio propone la copertina di Abbey Road con al posto dei Beatles Fabio Treves, Faulisi, Ricantoni e l'Ariele, che fanno la loro porca figura. Il più bello è Treves, però devo essere proprio onesto così. È trombetta. Quindi se siete interessati, se ne occupa Fernando, potete richiederlo alla mia casella di posta elettronica, poi giro tutto io a Fernando, ariel@radiorockfm.com. Questo anche per farvi sapere che non occupandocene noi in prima persona dovreste essere un po' più tranquilli, perché è risaputo che noi siamo abbastanza cialtroni. Quanti di voi là fuori conoscono i Beatles? Tanti, tanti, tantissimi, anzi tanterrimi. Quanti di voi là fuori conoscono Back in the USSR? Ancora una volta molti, molti, molti. Ma quanti di voi l'hanno mai sentita in italiano? Nessuno. Venerdì in anteprima nazionale a Pane, Burro e Rock and Roll, Back in the USSR come non l'avete mai sentita. Di ritorno, di ritorno, di ritorno nell'URSS. La rubrica di Pane, Burro e Rock and Roll che vanta innumerevoli tentativi di imitazione, tutti malamente riusciti. Appuntamento imperdibile con i Beatles, gli scarafaggi. Scarabatti. I Beatles, tradotti in italiano, suonano come scarabatti. Bravo. Buono.